Signor Pierluigi Pardo è pregato di tornare al più presto sulla terraferma. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Lo dico per l'ultima volta, basta con questa tarantella de Cassano. Pensiamo a giocare la partita del 30, il mercato qui del 3 settembre. Voi con sto Cassano andremo, che Cassano non verrà la Sampdoria perché i remake non ci piacciono. Non voglio più che disturbate. Costo Cassano è diventato una, se Cassano deve essere una nota di disturbo, o Cassano o Giovanni o Francesco, per i ragazzi che si stanno allenando, che stanno lavorando bene, che c'è un bel gruppo, che il mio allenatore che si innervosisce, che tutte queste cose qui, basta. Non ci facciamo rovinare niente da nessuno, perché nessuno può rovinare niente. Dico soltanto una cosa, che facciamoli lavorare, stanno qui, stanno lavorando bene e non mi è toccato lo spogliatoio, perché chi mi tocca lo spogliatoio è come ha visto fuori all'Eni, c'è sta a croce della morte, chi tocca i fili muore, e chi mi tocca i miei ragazzi muore. Ci sono problemi, io non sono venuto a dire niente, è chiaro che l'ultima parola è mia, io sono il proprietario, sono il presidente, e qualsiasi calciatore prendo, o i miei decidono di prendere, sono calciatori che sono giusti e per il progetto Samp, dove Zenga è ben felice di averlo. Pierluigi Pardo, come va? Ma io bene, ma sono preoccupato, ma da morire, eh? Mi puoi dare una mano, per favore? Puoi consolare De Luca, il nostro autore? Che ha fatto De Luca? No, perché il tweet di 5 minuti fa, secondo cui Diletta Leotta non sarà il nuovo volto di Sky Calcio Show al posto di Ilaria D'Amico, lo ha letteralmente distrutto. Non sarà. Ha smentito. Non sarà, perché dice che farà la Serie B e farà altre cose, il suo percorso è distrutto, ma è distrutto, ma ti assicuro, non so se riesce a mandarmi in onda le cose corrette, non so che fine faremo di quelle 3:30. Organizziamo un aperitivo con Diletta Leotta, con tutti i ragazzi, dai, fai qualcosa, ti organizzo io una cosa. Credo sia felicemente fidanzata, tra l'altro, ma questo non lo so sinceramente. Manco non mi occupo, dovremmo chiamare Parpiglia. Capire Parpiglia, chi spai. Però promesso che ci pensi tu a sollevarti il morale di De Luca, lo fai tu, no? No, ma De Luca tra l'altro mi ha detto che questa sera sta andando a cena spesso, credo che ci abbia anche una vita sentimentale abbastanza piena, quindi che vuole? Ma cosa vuole? Non lo so, stamattina era raggiante, poi alle 5 minuti prima di andare in onda è arrivato sto tweet di Letta Leotta che lo ha moralmente schiantato, non l'ho mai visto in queste condizioni. Giovanni Melchiori in redazione meno, Gianmarco Ferronati regia, se la ride bellamente e io sono preoccupato. Tanto ti sento bene, questa è già una notizia. Ho scelto per questo collegamento un posto che desse le massime garanzie dal punto di vista proprio del telefono. Quindi sono a largo di Ischia in questo momento, e proprio perché è il posto, è proprio il posto con la migliore ricezione, lo potrai verificare, guarda, sono pronto a tutto. Sì, intanto tu stai facendo tutto per distruggere me, via Monterosa, Nuova Tuna, Milano, ti ringrazio. Bene che tutta la prossima stagione, se tu sei d'accordo, almeno fino a ottobre, io la farei da qui, perché bravo, il livello di audio e io da qui. Grazie per il nordico, insomma, io insomma, anche se ci provo a parlare milanese qualche volta, però insomma, voglio dire, Terzina, fai in bacio a Suna Lorgan. Ti sembra una buona giustificazione, questa. Fai in bacio a Suna Lorgan. Andrò in barca sul Naviglio, Sono stanco e strutto. Mi ha insegnato ieri, stanco e strutto. 800 24 00 24, per chi vuole andare a Ischia con Pardo o per chi vuole venire in barca su Naviglio con me o per chi vuole andare a cena con Diletta Leotta e la Franca Giorgio, Giorgio De Luca. Quel posto già l'abbiamo segnato. Tancredi Palmieri, cosa fai tu? No, non vado a cena con Diletta Leotta. No, no, non ho capito. C'è Blatter che si libera la prossima stagione, che ha detto che vuole condurre programmi, ha detto alla radio, però che cosa c'ha di essere lotta più di Blatter? Perché Blatter no? Ah, non lo so. A me lo chiedi? No, cioè perché no? Diletta è pure molto simpatica, oltre a ragazza catanese, fra l'altro. Non so se sia Monfiano o Mammoriana, che sono due condizioni dello spirito di Catania, non lo so questo, però ragazza molto, molto simpatica e brava e ovviamente anche molto, molto piacente. Questo non devo dirlo io, è abbastanza ovvio questo elemento qui della benenza, insomma, lo vediamo tutte le televisioni e rimane. Beh, è ovvio, vuoi dire siamo andati a Atletica Itaca, è ovvio che è per un motivo di avvenenza, voglio dire. Vabbè, ragazzi, adesso o chiamo la signora Candida Morvillo o parliamo di calcio, decidete. No, voi. No, chiudo dicendo che c'è questa generazione, sono ragazze molto molto brave che uniscono i due elementi, ce ne sono insomma in tutte le televisioni. È chiaro che la televisione ha anche un elemento di presenza, ma questo vale anche per gli uomini, non è che vale in assoluto, in generale. È ovvio che se fai un lavoro a contatto pubblico, a parte il mio caso, che non si capisce, sono un uomo di 115 kg, però a parte questo. Mi unisco al tuo caso, fortunatamente, però non se ne sono accorto. Ma tu hai delle qualità nascoste, Palmieri. Attenzione. Che mi stai dicendo, De Luca? C'ho la televisione spenta, che c'è scritto? Ormai siamo, vabbè che è venerdì, è luglio, verso la fine siamo allo sbando. Intanto vi dico, ci provo a vedere Real Madrid Manchester City appena chiusa al Cricket Ground di Melbourne. C'erano 99.382, dico 382, spettatori. 4-1 per Real, che ha distrutto il City con i gol di Benzema, Cristiano Ronaldo, Pepe, rigore di Touré e poi questo Kerishev, di cui ignoravo sinceramente l'esistenza nella rosa del Real de Madrid. Benitez è il miglior allenatore al mondo, si vedono già, già la mano di Benitez. Eccola. 800 24 00 24, dopo questa dichiarazione di Pardo. Benitez è il miglior allenatore del mondo. No, non la twittate, perché adesso magari la twitta qualcuno. No, stavo scherzando. Non è il miglior allenatore del mondo, è bravo, insomma. Questo non sono dubbi, secondo me, l'abbiamo detto mille volte a Napoli, secondo anno soprattutto ha deluso, però insomma è il valore complessivo, ma era una battuta sul fatto che adesso ha vinto 4-1 con 48 ore fino a Inter Real di lunedì prossimo, tra l'altro commenterò su Premium, vediamo che tipo di situazione ci sarà. Intanto la notizia che mi segnalava l'affranto De Luca è che la Sampdoria è vicino alla cessione di Okaka all'Anderlecht. L'attaccante sarà a Bruxelles nelle prossime ore. Sapevamo che Okaka era sul piede di partenza, ma perché Cassano adesso non lo vuole più, Pierluigi? Perché Viperetta non lo vuole posso, più? Posso scegliere il silenzio stampa sulla no, nel senso che io sì, hai facoltà diritto. Allora rimango fermo a quello che ho detto altre volte, chiaramente non è che faccio un portavoce, no, la mia amicizia con Cassano non l'ho mai nascosta e rimane, al netto del fatto che abbiamo un patto di onestà intellettuale uno nei confronti dell'altro, per cui quando lui sbaglia, cosa che è successo spesso nella sua carriera, io lo dico perché è evidente, glielo dico a lui e lo dico anche nella mia attività di commentatore. Detto questo, io credo che lui sia legatissimo alla Samp, si è sentito mille volte tirato in ballo, a gennaio sicuramente era stato chiamato, adesso sicuramente ci sono stati dei contatti e la mia sensazione è che insomma si sia un pochino stancato di fare il parafuso, cioè di essere tirato in mezzo ogni volta per una cosa che poi non si concretizza. È probabilmente la cosa che spera di più in assoluto, perché è legatissimo alla Sampdoria e un paio d'anni fa ha visitato il Genoa, tanto per essere chiari, proprio per una forma di rispetto nei confronti di quei tifosi lì, però penso che non lo so, sono 2 o 3 giorni che non lo sento, ma penso che non gli faccia piacere questo tipo di situazione, di sentirsi ogni volta tirato in ballo e poi c'è sempre da smentita, insomma nessuno sta elemosinando niente, ecco, questo non ci sono dubbi. No, poi le posizioni mi sembrano chiare, cioè Ferrero lo porterebbe volentieri alla Sampdoria, Zenga non... Esatto. non vuole, cioè mi sembra che le posizioni siano piuttosto definite su questo. Zeng ha rilasciato un'intervista, quella alla Gazzetta, dove molto chiaramente ha detto no, io l'ho sentito, il progetto tecnico è questo. Ferrero secondo me avrebbe fatto qualsiasi cosa, come ha detto bene Pierre, nessuno meglio di lui può dirlo, ma non dico gratis, ma quasi, Cassano andrebbe. Però secondo me, insomma, non solo secondo me, è stata talmente chiara la cosa da parte di Zenga, come a dire, ma tu veramente mi vuoi delegittimare in questa maniera? Sì. La stagione non è nemmeno iniziata. E allora, di fronte alla ragion di Stato, Ferrero forse per la prima volta da quando è arrivato ha dovuto fare meno il Ferrero. Sì. Allora ci fermiamo per il traffico, poi domani è il giorno del derby dell'altro mondo di cui vorrei parlare, risvolti di mercato compresi, perché Jovetic e Perisic sono praticamente in volo, non per la Cina ma per l'Inter. Il tour si arrampica sulle Alpi e le cronache mi dicono di un Nibali all'attacco. C'è la Formula 1 in Ungheria, a proposito stamattina terrificante incidente senza conseguenze a Perez. I mondiali di nuoto stanno per iniziare a Kazan, stasera a Londra vedremo un Usain Bolt in difficoltà alla vigilia dei mondiali, e insomma parliamo di quello che volete. Dopo il traffico però il derby dell'altro mondo, quello che si gioca domani in Cina. Strade. La Sampdoria, come ho sempre detto, è la squadra che mi è entrata nel cuore. Io sono interista dalla nascita, però la Sampdoria per me rappresenta tutto. Io non voglio creare nessun problema. Io voglio tornare alla Sampdoria perché sono innamorato della Sampdoria, di Genova. L'unico vero rimpianto che ho nella mia carriera calcistica è la problematica che ho creato a Garrone, soprattutto per lui, gli volevo tanto bene. Tutti convocati. Tutti convocati. Maradona che canta No Woman No Cry. Woman is not crying because beh, hanno delle cose in comune, hanno dei problemi con Marley e Maradona. Sì, va anche la famosa Claudia Villafane Dieghito in questi sai cosa hanno anche in comune? Di essere fra i personaggi, mi viene in mente anche Che Guevara, sicuramente ce ne sarà anche qualcun altro, che hanno un'immagine proprio iconica stampata sulle magliette, no? Esiste una realtà ovviamente per Bob Marley, un'iconografia, hai ragione. Ecco, però esiste un'iconografia, cioè esiste un'immagine consegnata alla memoria, stampata in mille magliette, che è diventata brand, che è diventata logo. Questo Maradona, Bob Marley, mi viene in mente Che Guevara, poi probabilmente ce ne saranno anche altri. Hanno una forza incredibile, cioè sono qualcosa di più di un semplice essere umano geniale, sì, di uno straordinario calciatore, di un fantastico cantante. Sono veramente icone. Possiamo fare l'elenco: John Lennon, la sua famosa maglietta New York City. Non sono tantissimi. Con questa cosa qui, secondo me sono pochi. 800240024, apro il sondaggio anche da questo punto di vista. A parte collegato con noi c'è anche Tancredi Palmieri. Tra poco vorrei allargare le consultazioni sul derby cinese di domani. Mentre per completare, la No Woman No Cry cantata da Dieghito, ma c'è Claudia Villafane, la storica ex moglie ormai, che viene accusata da Diego di avergli rubato, usa queste parole, 8 milioni. Quindi questa non è una cosa da poco. Dicevo, volevo allargare le consultazioni sul derby di domani, includendo anche il nostro amico Franco Ordine dal giornale. Ciao Ciccio. Eccoci qua. Buon pomeriggio. Questo è Pardo, Franco, non ti preoccupare. Sì, ma non c'è bisogno. No, lo so perfettamente. Senti, Berlusconi ha contato 1,3 milioni di potenziali tifosi cinesi del Milan. Sarebbe meglio battere Toir in casa di Mr. B. Ma guarda, io non penso che quello che è in gioco domani abbia un qualche valore di natura tecnica. Io ho l'impressione che conti molto altro. Io ho l'impressione che conti il tipo di entusiasmo capace di suscitare con la partita di domani e con quella successiva con il Real Madrid. Credo insomma che in gioco non ci sia un derby, seppure amichevole, che diciamo dal punto di vista squisitamente tecnico conta relativamente, perché le squadre sono largamente incomplete, perché siamo ancora all'inizio della preparazione e manca esattamente un mese pieno all'inizio del campionato. Credo che invece conti il resto, il lavoro, quello che si sta facendo e il lavoro che si sta preparando per il futuro, perché quello sarà in qualche modo il terreno, la semina che dovrà dare i suoi frutti. Sì, intanto poi c'è una voce, e ne parliamo più tardi, di un Ibrahimovic che dice: ah, quanto mi piacerebbe andare a giocare negli Stati Uniti, ormai è una nuova frontiera del calcio, eccetera eccetera. Magari questo ha messo un solo, ha detto anche che lo ha trovato nettamente migliorato rispetto a qualche tempo fa, e naturalmente così credo che sia quella diciamo la conclusione naturale della sua carriera, che penso non veda così vicino, tra l'altro. Sì, no, non penso neanche io, cioè quella sarà l'ultima destinazione, ma non probabilmente la prossima. Pardo e Palmieri, il derby di domani Posso essere spoedizzante, perché se è chiaro, io ti dico che noi... Bacca e Luis Adriano non giocheranno, cioè è un Milan che si presenterà col vecchio vestito, salvo Bertolacci, forse questo a sottolineare l'importanza che Mihajlovic dà a questa partita. Ma allora, diciamo che il calcio è chiaramente la cosa più importante del mondo, no? Cioè, al di là delle guerre, vabbè, delle tragedie, dico in generale, insomma, voglio dire, guerra mondiale, non c'è un'altra cosa che della quale si parli così tanto tutti i giorni. Si parla della crisi greca nel momento in cui c'è il referendum, ma non è che nei bar di tutto il mondo si parli dell'eurozona o del Pisa, quindi del calcio, piaccia o no, è l'argomento più pop del mondo, se ne parla tutti i giorni. Io non vorrei essere spoetizzante o fare un discorso che va contro la categoria, ma noi tutti i giorni siamo qui a parlare di cose che non sono rilevanti per quella che sarà la stagione. Il Real Madrid ha appena battuto 4-1 il Manchester City, e non c'è nemmeno, da qui non può nascere neanche un indizio, secondo me, sul fatto che il Real Madrid farà un'ottima stagione. Sì, questo è evidente, Pier. Siamo qui a parlare della macchina sparapallone di Sarri o del nuovo preparatore della Roma o di cose veramente, perché riempiono ovviamente questi giorni, e quindi domani è chiaro che il derby lo sappiamo e sarà interessante, darà un po' di motivazione in più e un po' di energia in più a chi lo vincerà e un po' di depressione a chi lo perderà, ma la verità è che non conta assolutamente nulla. Guarda, l'unica cosa che potrebbe forse cambiare qualche cosa è, nel caso, ipotizzo, se il Milan dovesse perdere male, magari con errori difensivi, esatto. Perché comunque sia, in attacco, beh, i soldi li hanno spesi. A centrocampo non puoi aggiungere molto se non prendi dei valori assoluti da 50 milioni di euro, però in difesa non hanno fatto niente. Metti caso perdono, non lo so, anche 2-0 con due errori difensivi e altro, magari quello può dare la spinta ad alzare ulteriormente l'offerta per Romagnoli. Sì, no, ma per carità, ma va bene tutto, insomma, però voglio dirvi, godiamocelo per quello che è, cioè un amichevole, cioè una partita di calcio, e non a caso tu sottolineavi 99.000 di Melbourne. Sì. E qui insomma c'è lo spirito di evangelizzazione che il calcio, che è il fenomeno culturale pop più forte che esiste, fa in questo periodo dell'anno verso territori e luoghi abbastanza sì, però dove... sai, sono potenziali mercati, se vai lì, cioè, il discorso è, Franco Ordine, dimmi la tua, se tu vai lì e fai una figuraccia, questo non pesa ovviamente sul piano sportivo, dal punto di vista della stagione non sposta nulla. Però è una platea importante in questo momento. Ma poi c'è anche una storiografia di figuracce, per esempio, del Sì. No? Franco, insomma, probabilmente se la ricorda tutta memoria, nome nel precampionato. Però ecco, da qui ad arrivare a delle conclusioni, secondo me. No, non delle conclusioni agonistiche, però ci sono discorsi di altro tipo, Franco. Allora, intanto vorrei capire quali sarebbero i centrocampisti da 50 milioni di euro. Io invece penso esattamente il contrario, e cioè sarebbe quasi da benedire un'eventuale sconfitta, perché dovrebbe dare la spinta propulsiva a completare l'operazione, perché il Milan in questo momento è esattamente a metà del guado, si ritrova a metà del fiume, non ha soltanto diciamo ritoccato parzialmente il centrocampo, ha completamente modificato l'attacco, che tra l'altro non vedremo domani pomeriggio, ma non ha ancora provveduto a reclutare il puntello per la difesa e soprattutto un leader di gioco oltre che di spogliatoio. Cioè, mi stai dicendo che per arrivare dall'altra parte del fiume i nomi sono solo due, Ibrahimovic e Romagnoli, che peraltro non mi sembra abbiano alternative, stai dicendo questo? Sì, però uno la barca a remi e l'altro c'ha il, non lo so adesso, non fare pubblicità, un altro c'ha il motoscafo. No, Romagnoli è importantissimo, io penso che Milan debba investire come reparto, debba investire soprattutto dietro, perché dietro c'è l'emergenza molto più che davanti, però penso che Ibra, l'abbiamo detto mille volte, con la sua diversità, con la differenza. Però scusami Pierluigi, scusami se insisto su questo argomento che mi è particolarmente caro. Al netto di Romagnoli, che adesso non può essere diventato l'erede di Franco Baresi, senza aver dato ancora una dimostrazione continua e concreta, ma voglio dire, la difesa del Milan così come è oggi, quindi senza un rinforzo, secondo voi è peggio di quella del Torino, di quella dell'Empoli, di quella della Fiorentina, di quella del Chievo, che hanno, l'anno scorso hanno fatto hanno avuto performance migliori? Allora qual è, diciamo, l'altra chiave di lettura? Che a questa squadra serviva come il pane e come l'acqua un allenatore, e cioè uno capace di dare anche organizzazione difensiva, perché le squadre non si fanno solo e soltanto con i numeri. Io ti ricordo che il Milan di Iniesta e Thiago Silva prendeva gol su calcio piazzato dagli avversari come se nulla fosse. Ma certo, quindi è tempo stesso per dirti la Roma dell'anno scorso, con tutti i suoi difetti, senza Castagna, se la ti ha partito con gente, con tutto rispetto, come Manolas, che è buono, ma insomma Young and BY a Story è stata la seconda miglior difesa del campionato. Sì, quindi sì, sì. No, ma ha ragione, io sono d'accordo con Franco. È fondamentale, ma guarda, è un po' lo stesso discorso che fanno a Napoli in queste ore. Cioè, a Napoli in queste ore, per il semplice fatto che Gab Sarri, che sta lavorando tanto fase difensiva, già questo cambia un po' gli umori e dà la sensazione che Koulibaly sia un po' meglio del, certo, come era prima, certo, al certo, Viola, certo, certo, però, certo, certo, certo. Milan e Napoli, il grande difensore, secondo me lo devo comprare. Non no, ma questo anche il Milan, questo anche il Milan. Io mi devo fermare per la borsa, ringrazio Franco Ordine, grazie Ciccio, ringrazio Tancredi Palmieri, grazie Tancredi. Ciao, Pardo, rimani con noi, borsa, torniamo subito, 800240024. Tutte puttanate! Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Il signor Pardo è pregato di cambiare telefono. Tutti convocati. Nella mia carriera non sono mai stato uno che vada sulle riviste, fa pubblicità, non sono il tipo da copertina, quindi sono venuto in America non per fare il turista, non per fare il pubblicitario, ma per giocare a calcio, che è la cosa più importante per me e la cosa che riesco meglio. Poi se ci può aiutare anche la MLS a crescere, ben venga, però la cosa più importante per me è aiutare la squadra e giocare a calcio. Quando uno gioca e dimostra, è giusto che guadagni, però il calcio è una cosa, il denaro è un'altra. Purtroppo non posso tirare indietro gli anni, quindi la mia età è questa. Però non sono vecchio, ho voglia di giocare, sto bene e quindi cercherò di dare sempre il meglio. Questo avete riconosciuto, credo, è Andrea Pirlo, che si è presentato così al calcio americano e che probabilmente si appresta a debuttare sfidando Kakà. Intanto c'è Mihajlovic che alla vigilia del derby dice: se Romagnoli andrà via dalla Roma verrà certamente al Milan. Per quanto riguarda Ibrahimovic, è libero di venire, non so se hai i soldi per l'aereo. Questo è un po' di dichiarazioni di Mihajlovic. Ma fa Pirlo e Kakà, quello giovane chi è Pirlo? Sì, sì, tendenzialmente sì. Questa cosa mi viene da pensare, no? Come tante volte poi la longevità sia un fatto appunto soggettivo, cioè ci sono giocatori che ha avuto una carriera straordinaria, poi si è incupito, è diventato tra virgolette anziano presto, è diventato non dico un ex, ma insomma un giocatore non più di quel livello. Però Pier Kakà era un giocatore anche che faceva delle doti fisiche, qualcosa, certo, di dell'accelerazione in verticale, qualcosa di determinante per infatti, il suo infatti gioco. Ci sono ruoli dove chiaramente è facile essere longevo, insomma, ci sono anche delle evoluzioni. Pirlo ce l'ha avuta presto, ce l'ha avuta quando era ancora in una fase di relativa giovinezza, questo spostamento tattico pensato per primo da Mazzone e poi perfezionato da Ancelotti, no, davanti alla difesa, che poi ha finito inevitabilmente per allungargli la carriera. Se fosse rimasto trequartista, Pirlo forse sarebbe rimasto sempre un, non voglio dire un mezzo giocatore, però il rischio ormai c'era. Invece quel tipo di intuizione secondo me gli ha cambiato la vita certamente. Roberto Caserta, buongiorno. Ciao, buongiorno Carlo, come va? Bene, bene, tu? Dimmi. Volevo candidare la Rosaria Cannavò al posto della Ilaria D'Amico. Sì. Ok. E poi due domande. Raccogliamo candidatura, adesso me lo segno. Okay. Tra l'altro posso dire, un momento veramente scusate, capisco che sono morbilliano o parpigliano, ma Rosaria Cannavò è diretta alle 8, sono molto amiche, sono entrambe catanesi. Perciò io direi derby. Che ha rinunciato perfetto. E la Rosaria penso che possa ben figurare. Mi dice no Giorgio Luca, che vuol dire no col ditino? No? Dimmi? Non ho capito. Ah, va bene. Non sono più amiche. No, ormai no, è lui che ha perso la testa, lascia ha stare. Ha perso la testa per diventare totalmente sbroccato. Non è neanche bello far vedere che stai così. No, una posizione di debolezza che la donna percepisce, no? De Luca, finti, ostenta sicurezza, fai pago, diletta le otta, capito? Certo, vediamo che filosofia. No, ragazzi, lo spieghi tutto. Roberto, dimmi, Roberto. Tra Diletta e Rosaria c'è una bella lotta. Vabbè. Comunque raccogliamo candidature. Allora, detto questo. Perfetto. Poi. No niente, adesso due domande su tennis. Volevo sapere, secondo voi e secondo gli ascoltatori, se Rafa Nadal riuscirà a rientrare nei primi quattro e se la Giorgi riuscirà nella vita a rientrare nelle prime dieci. Secondo me è sì a entrambe le risposte, poi il resto lo lascio agli ascoltatori. Sì, sì, anche io mi fido del dottor Genta, quindi sì, secondo me. Francesco, provincia di Ancona. Buongiorno e grazie per la convocazione. A lei, dica. Dunque, io devo togliermi una piccola spina. Sì. Non capisco perché la stampa abbia un atteggiamento così buonista nei confronti di Gagliani. Negli ultimi anni si è sempre detto che Gagliani faceva i miracoli perché non c'erano i soldi ed era il più grande dirigente italiano e così via. Adesso quest'anno ci sono i soldi, secondo me è palese che non ci siano le idee e quelle poche sono confuse. Ma non mi sembra siano tanto confuse. 58 milioni per Bacca, Bertolacci e Adriano, forse altri 50 per Ibi, fanno 108 milioni e non aveva forzato la squadra in maniera significativa. Tra l'altro non si capisce, Bacca 30 milioni quasi 30 anni quando poi si pensa di prendere Ibra. Come arriviamo a 108? Mi scusi, non mi sono perso un po'. 20 Bertolacci, Ibra, 20 Bertolacci, poi 30 Bacca, 8 Adriano, poi 50 il costo di Ibra. No, 50 il costo di Ibra, no. 18 milioni su 3 anni sono 36. Sì, vabbè, ma Ibra Paris Saint Germain, diciamo 41. Non cambia la distanza, cioè. Quindi l'alternativa secondo lei quale doveva essere? Forse si poteva concentrare 60 milioni, io adesso non sono un uomo di mercato, non è il mio mestiere, ma forse con 60 milioni un giocatore come Cavani o un giocatore come Verratti lo si portava a casa. Sì, non penso che se Paris Saint Germain vende Ibra vende anche Cavani. Comunque io sono d'accordo su una cosa, cioè una cosa non mi ricordo. mercato del Milan, Bacca e Luis Adriano, cioè tutti e due mi sembrano un po', mi sembra che facciano un po' scopa. Sì. Come tipo di investimento, soprattutto se poi dovesse arrivare Ibra. Quindi su questo posso essere d'accordo che ci sia un po' un'anomalia. E non l'ho capita questa cosa, nel senso che secondo me se ne devi prendere tre clamorosi, prendi Ibra, che tanto insomma è l'obiettivo, c'è poco da fare, e secondo me è anche giusto provare a prenderlo. Prendi uno fra Bacca e Luis Adriano e prendi un grande difensore. Questa è la, secondo me, la, il mercato perfetto del Milan, così viso a tavolino. Detto questo, non so dirti se c'è un atteggiamento buonista nei confronti di Galliani. Guarda che Galliani negli ultimi anni è stato oggetto anche di critiche molto, molto dure da parte di Alcocer. A me sembra che Galliani, come è stato per diverse volte, per almeno un paio di volte sulla porta del divorzio, Galliani, sì, da Berlusconi, cioè, per diverse ragioni. Faccio fatica a vedere la stampa italiana tutta, diciamo, asservita, servita a Galliani. Sembra, certo, che ci sia, che a Galliani siano stati riconosciuti dei grandi meriti, come ci sono, e anche qualche colpa nei periodi di maggiore difficoltà, insomma. E su questa campagna qui si sono d'accordo, non capisco appunto, Bacca e Luis Adriano insieme mi sembra un po' che facciano scopa. Sì, visti i prezzi di questo mercato, però 30 Bacca e 20 Bertolacci sono tanti soldi, però sono in linea con le quotazioni di Condombià in giù o in su, o di quelli che si stanno al momento muovendo, quindi mi sembra che siano quotazioni elevatissime, ma in linea. Poi non dimentichiamo che molto spesso Galliani opera per espressa volontà di chi sta sopra di lui, quindi sì, se mi dice vanno a prendere questo, io provo a prendertelo. Cioè, Bertolacci avevo detto mille volte, lo ribadisco, insomma sembrava un prezzo alto, ma perché eravamo nei primi giorni. Bertolacci è arrivato a stare intorno al 20 giugno, quindi eravamo proprio all'inizio del mercato e ancora non c'era una casistica di prezzi. E adesso, alla luce dei prezzi che ci sono ovunque, Bertolacci a 20 è il prezzo suo, cioè, quindi devo correggere quel tipo di situazione. C'è un'inflazione che nessuno, immaginavo, e quindi alla fine 20 milioni per Bertolacci ci stanno. Insomma, se la Roma ne chiede 30 per Romagnoli, 20 per Bertolacci è una quotazione, direi, è quasi poco. In confronto è quasi poco. Senti, ci fermiamo per il traffico, poi vedo già in linea Edoardo da Bologna, Nicola da Pisa, stiamo aspettando anche un ospite. 800 24 00 24, e siete sempre tutti convocati e ospiti di tutti convocati. Traffico. Tra Diletta e Rosaria c'è una bella lotta. Tutti convocati. Convocati. Edoardo, Bologna, buongiorno. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Dica. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Siete fantastici. Volevo... Che botta per... Mamma mia, sto rivedendo l'incidente, che paura. Poi ne parliamo. Dica. Volevo un vostro parere. Un tempo fa io ho sentito la vostra trasmissione, avete osannato, e io condivido, il comportamento di Beruto quando ha allontanato i quattro, sono arrivati tardi, eccetera. Oggi però, leggendo la Gazzetta, Beruto è messo in discussione, addirittura si fa il nome di Stoichkov, eccetera. Non è che la pallavolo si sta calcizzando? Non lo so se la pallavolo si sta calcizzando, era stata una decisione molto, molto forte. Non ricordo di averla osannata, l'ho ricordato come episodio di cronaca. Io non lo so, sinceramente, alla vigilia di una finale di World League, va bene, questi sono in ritardo, vogliamo fare i duri e puri, mandiamoli pure a casa, però stiamo pur sempre parlando di sport professionistico. E quindi secondo me, per rispetto anche degli altri che sono lì, degli sforzi che hanno fatto eccetera, io mi presenterei alla finale di World League nelle condizioni migliori e poi ne parliamo. Guarda, io insomma ho avuto modo in questi anni di conoscere allenatori e di confrontarmi con grandi allenatori del calcio, insomma, di andare a cena, di parlare con Capello, con Ancelotti, con Montali nella pallavolo, con Velasco. E secondo me non esistono regole assolute nella gestione di un gruppo. Esistono casi, situazioni, esiste la credibilità e il carisma che un allenatore riesce a trasmettere alla squadra, la compattezza. Quindi Berruto a me è simpaticissimo e lo stimo. Se ha fatto questa scelta avrà avuto i suoi motivi, però ci sono le regole e ci sono le eccezioni. Prima abbiamo parlato di Cassano negli ultimi anni secondo me è stato molto tranquillo, ma all'inizio della sua carriera sappiamo bene che Capello con lui certe volte faceva finta di non vedere, sì, perché gli serviva. Mm-hmm. Sappiamo che a Maradona, giustamente, che insomma è il più grande di tutti, sono state perdonate delle cose durante la sua carriera. Esistono regole, esistono eccezioni, esistono tanti casi, esiste la forza del gruppo. L'obiettivo è sempre comunque il bene della squadra. Quindi se attraverso la cacciata di questi quattro, sì, vuole, se si è voluta costruire una squadra migliore, io questo non lo so, però insomma certamente Berruto si è preso un grande rischio. Si è preso non un credo grande sia un rischio. Discorso di calcio o pallavolo, io credo sia un discorso di, no, no, no, ma stiamo facendo un discorso di sport, gestione dei gruppi, di sport, cioè se tu prendi Montali, c'è un libro di Montali che si chiama Scoiattoli e Tacchini, è un libro interessante secondo me, sia per chi si occupa di aziende, quindi di gestione di gruppi di lavoro, sia per chi si occupa di sport, che poi alla fine sono tutte forme di squadra, no? Sono tutte forme di agonismo e di squadra, riuscire a ottenere il massimo risultato collettivo. E esistono anche tipi umani diversi, persone più regolari, esistono dei gregari che si comportano sempre bene, esistono dei campioni che spesso hanno una certa sregolatezza e che a volte possono minare gli equilibri del gruppo, ma è anche vero che però ti possono dare molto. Quindi nell'equilibrio fra queste cose c'è sì, senza dimenticare che possiamo fare la morale a tutti, no? Possiamo fare dei discorsi molto demagogici e dire che ha fatto bene perché così le regole valgono per tutti, non solo per quelli meno forti, non solo per quelli meno importanti, però io non dimenticherei che stiamo parlando di sport professionistico dove girano interessi non solo economici ma anche emotivi, cioè io mi metto nei panni di un giocatore della nazionale, ok, sono contento perché quei farabutti che erano in giro alle 2 di notte a Rio li hanno mandati a casa, però poi magari perdo la World League e con loro l'avrei vinta o comunque avrei fatto una figura migliore, quindi stiamo parlando pur sempre di sport professionistico al massimo livello e non di sport parrocchiale, dove invece quelle regole dovrebbero essere sacrosante proprio per imparare. Poi ognuno ha la sua idea. Cioè, ad esempio, se mondiali di calcio mi cacciano a casa e il capitano è il giocatore più forte perché erano in giro a bere, io mi incazzo e poi perdiamo una partita, e certo che mettiamo in discussione l'allenatore. Detto questo, poi la questione la risolvi e fai in modo che non succeda più, o fai in modo che questi si ristabiliscano la loro posizione agli occhi dei compagni. Secondo me può essere questa la posizione. Nicola Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Genta. A parte i complimenti, mi hanno un po' rubato la domanda precedente, perché anche io appunto volevo parlare della storia di Berruto. Non è che poi anche a livello tecnico i nostri problemi, cioè dei nostri della nazionale di pallavolo, essendo sempre gli stessi, cioè problemi a Muro, i problemi di intemperanze con i vari Zaidev e Travizza, anche il cambio di capitano tra Birarelli e Travizza, non è una mancanza a questo punto di sintonia tra l'allenatore e il gruppo, anche dei senatori più storici, tant'è che il capitano è stato uno di quelli che si è fatto beccare. Sì, questo non glielo so dire, bisogna essere all'interno di quelle dinamiche del gruppo, possiamo anche essere portati a pensarla così. Però è altrettanto evidente, e anche il calcio come il basket è piena di storie di questo tipo, insomma bisogna trovare il modo di utilizzare i giocatori che sono funzionali al tuo progetto, non è che semplicemente li puoi lasciare a casa il capitano e i più forti perché non si comportano bene, continua a pensarla in questa maniera. E dipende soprattutto poi anche dal tipo di percorso che hai davanti. Ci sono storie, c'è una storia bellissima, tra l'altro un libro di Ghigli Chiappaventi che consiglio a tutti, oggi proprio sto bene di consigli di letterari, è un libro che credo si trovi ancora qualche parte, che è sulla storia dello scudetto della Lazio del 74, che fu uno scudetto vinto, è storia, da una squadra che aveva due spogliatoi, due clan, con delle storie anche non proprio bellissime di gente che andava al poligono a sparare, di scherzi, però hanno vinto il campionato. Cioè, esiste tutto il contrario di tutto, non è che per forza un ambiente con tutti i bravi ragazzi che si vogliono bene, che vanno a cena insieme tutte le sere e che si amano sia necessariamente migliore e vincente rispetto a un altro. Anzi, certe volte, come l'amore non è bello se non è litigarello, serve dell'energia, serve della adrenalina, serve anche in qualche circostanza uno shock, certo, negativo. E tante volte ci sono degli allenatori che utilizzano anche questo. Io mi ricordo il Montella quasi umiliato dell'anno dello scudetto della Roma, quasi umiliato da Capello, che lo faceva partire spesso in panchina, entrava in campo incazzato come una iena, e spesso risolveva le partite, il stesso discorso alla Juve con Del Piero, sempre negli anni di Capello. Cioè, esistono anche questo tipo di dinamiche, però la forza è quella dell'allenatore, che in certi casi fa finta di non vedere, in certi casi invece sceglie che la strada della durezza sia quella giusta. Non esiste una regola assoluta, se Peruto l'ha fatto, si è preso si è preso una grande responsabilità, si è preso una grande responsabilità, un grande rischio. È chiaro che quando hai a che fare con ego di campioni, perché di questo si tratta, devi saperli anche gestire, devi saper canalizzare questo ego in maniera funzionale alla squadra. Guarda, io stavo leggendo invece il libro di Franco Casalini sulla grande Milano del basket degli anni 80, giusto che siamo in tema di libri, e Via verso una nuova avventura si intitola, e dice che una delle tecniche usate da Peterson quando sostituiva un giocatore era quella di correre dalla parte opposta rispetto in fondo alla panchina, laddove il giocatore era dalla parte opposta rispetto a quella dalla quale il giocatore usciva, proprio per non sentire eventuali insulti, incazzature. E poi dice: mai parlare con un giocatore appena è sostituito, perché sicuramente è nervoso, sicuramente è arrabbiato, sicuramente non è contento. Ci sono diversi modi, diverse tecniche. Parliamo dopo spogliatoio. non voglio sentire te per nessuna ragione. Tu incazzato perché sei uscito, io allenatore, tu giocatore, parliamo dopo. grande. No, ma però vedi, il concetto, adesso io il libro di Casalini non l'ho letto, però quella squadra era chiaramente vincente, e la forza poi è l'uomo, la forza è il carisma dell'allenatore, che è qualcosa spesso di indefinibile, di intraducibile, ma che fa la differenza, ma fa la differenza nella vita di tutti. Ci sono delle persone che hanno negli occhi e nel linguaggio una forza e un'energia e una capacità di seduzione, fascinazione che altre persone non hanno. Ognuno di noi, anche banalmente sul posto di lavoro, la mattina al bar, emana qualcosa, certo. Emana una sensazione ma perché abbiamo fatto mille volte questo discorso per cui ma sono bravo anch'io e non sono Mourinho a vincere con il Chelsea, o sono bravo anch'io come Ancelotti a vincere con Real Madrid? Sono tutte stupidaggini, perché nella gestione di questo tipo di squadre, di questo tipo di nuclei, di questo tipo di ego, ripeto, di grandi giocatori, non è vero che gli allenatori sono tutti uguali, bisogna avere determinate caratteristiche. Detto mille volte, lo dico la milleunesima, ho fatto l'autobiografia di Eto'o nell'anno del triplete dell'Inter, e lui era invasato da Mourinho, non nelle dichiarazioni pubbliche, anche quando ci vedevamo per scrivere il libro, lui era pazzo di Mourinho. E difendeva delle tesi, secondo me, di Mourinho spesso esagerate e provocatorie, la prostituzione intellettuale, insomma, non mi convincerete su quello onestamente, però Mourinho era talmente bravo che era riuscito a compattare tutto l'ambiente e a far pensare a tutto l'ambiente, compreso a uno come Eto'o, che aveva già vinto la Champions League in carriera e giocava a Barcellona, che avesse ragione lui, è un guru. E quindi io penso che Mourinho lo si può discutere qualche sostituzione che avrà fatto, ma sì, possiamo dire come tutti, questo discorso possiamo farlo tutti i giorni, l'abbiamo fatto mille volte con Andrea Zorzi a proposito di Velasco. Tutte le grandi squadre nascono in questo modo qui. Pierluigi, ci sentiamo domani, non muoverti di lì se puoi, perché oggi no, domani è sabato. Allora, domani devi stare lì. Sentiamo. No, vabbè, devi stare lì fino a lunedì. Devi stare lì fino a lunedì. Non ti muovere fino a lunedì. Bravo. Lunedì, allora ci risentiamo per Luigi Pardo. Voi state con noi, però, perché abbiamo un'altra mezz'ora per parlare insieme di molte altre cose. 800 24 00 24, numero verde. Ciao Luigi, ciao per Luigi. Ciao a tutti e due. Tutti convocati. I nasi elettronici, il contaapi, i droni che sorvolano i campi. Ma anche la cottura in lavapiatto. O le fragole sospese. E internet fra i vigneti. E il pomodoro nero. Questo è Foodlab, il programma che vi racconta le tecnologie per il cibo del futuro. Federico Pedrocchi. Chiara Albicocco. Vi aspettiamo tutti i sabati alle 15 e domenica alle 7:10 del mattino qui. Che dire, arrieccici. Convocati. Sapete che a quest'ora di solito andiamo in giro per ritiri, no? Per farvi sentire un po' di voci. Lo facciamo anche oggi, prima di parlare di nuovo con voi su tutto quello che volete. 800 24 00 24, prima di dare una pennellata di Formula 1 e una di Tour de France. A proposito, all'inizio della trasmissione vi ho detto che c'è grande movimento, che c'era un Nibali particolarmente attivo in questa tappa alpina che porta alla Croix de Fer. Adesso gruppo compatto per tutti i big, ma state certi che qualche attacco ci sarà in questo finale di Tour de France. Dicevamo ritiri, prima vi porto a quello del Verona, Hellas Verona, sentiamo Pisano. È un sogno sia per noi anche per i tifosi, perché comunque è una coppia veramente importante e credo che possano far bene tutti e due insieme come hanno già fatto in passato. E sta anche a noi e al resto della squadra comunque poterli supportare e farli star bene là davanti. Questo era Pisano del Verona, ora quello del ritiro dell'Atalanta, e c'è Kurtic. Il mister sicuramente ha tanta esperienza nel mondo dell'allenatore e si vede che stiamo lavorando molto bene, c'è molta, molta voglia di far bene e noi ragazzi siamo pronti. E il mister fa far bene, fa far sentire ogni giocatore che fa parte della squadra che si deve sentire importante, questo è importante per noi e anche per lui. E infine al Sassuolo particolarmente attivo sul mercato, Di Francesco. Abbiamo parlato tanto di Zapata, alla fine non l'abbiamo fatto, era un giocatore che noi volevamo, che avevamo da tempo seguito, devo dire che era un po' l'attaccante ideale. In questo momento i miei direttori si stanno guardando attorno, devo dire che Belotti è un profilo di giocatore interessante, però vi assicuro che potrebbe essere seguito come tanti altri. E dunque vediamo cosa combina il Sassuolo sul mercato, mentre il Carpi non ha rinunciato all'idea Boriello. Insomma, sono diverse trattative, diversi movimenti e, come al solito, banale, se sono rose fioriranno, banalotta, sì. Giuseppe Pescara, buongiorno. Sì, buongiorno, saluti i conduttori. L'argomento è il mercato della Juventus. Sì. In particolare, secondo me, giustamente sono partiti i tre giocatori che hanno disputato la peggior partita contro il Barcellona. Forse anche Pogba meritava, vista quella partita, di partire, ma credo che succederà il prossimo anno con un'offerta molto buona. Beh, ma Giuseppe, si valuta in base a quella partita? Ma no, credo. No, però voglio dire, poi... No, credo poi... sia circostanziale questo. Sì, circostanziale, comunque meglio così, a mio avviso. E, visto il mercato attuale, secondo me è un ottimo mercato, però vi chiedevo, se non dovesse arrivare il trequartista, come si schiererà la squadra? E a questo punto il ruolo di Dybala, che forse giustamente se ne parla poco per non dare tanta pressione, però il ragazzo è costato 40 milioni. Sì. È il futuro. Ma secondo me è il giocatore determinante per questa stagione. Grazie. Sì, giocatore determinante andremo a scoprirlo, perché penso che, insomma, abbiamo parlato anche ieri dell'ipotesi che non convince poi tanto. Di Dybala trequartista anch'io non lo vedo, secondo me è una magnifica seconda punta. Credo che i titolari all'inizio saranno gli altri due, cioè Mandžukić e Morata. Ho qualche dubbio e me lo tengo sulla possibilità di coesistenza comunque di questi due giocatori, che sono grosso modo due prime punte. Mandžukić sicuro e non c'è alternativa. Morata l'anno scorso ha fatto la prima punta con Tevez, che gli ruotava e gli ballava intorno, adesso dovrà modificare, credo, per comporre una buona chimica, il suo modo di giocare. In tutto questo, l'ho detto molte volte, per Dybala sarebbe stata estremamente utile un anno di scuola di Carlitos Tevez. È andata come è andata e quindi dovrà maturare più in fretta, magari con le lezioni private, che volete che vi dica. Facciamo un salto in Ungheria, dove stamattina abbiamo visto un incidente tremendo senza conseguenze, a Perez. Oh, Perez! Capottato Perez! Bruttissimo! Ha urtato contro le barriere a destra, credo. Vediamo uscire il pilota. All'immagine di Perez, ovviamente, al più presto. Dall'ok il commissario. Siamo più tranquilli, vediamo che si sta togliendo le cinture, c'è anche il team radio. Checo? Are you okay, Checo? Are you okay? Yes. I'm okay, man. Sono a posto, compagno. Eh sì, però vedere quell'incidente che abbiamo sentito raccontato a Carlo Lanzini a Sky, insomma, è stato un attimo di brivido. Urto violentissimo sul guardrail di destra, quindi la macchina si è ribaltata in mezzo alla pista, è rimasta capovolta e la struttura ovviamente ha tenuto. Da sotto la macchina è uscito Perez. I'm ok, per fortuna. Ciao Antonio Boselli, sempre da Sky. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno. Bruttarello, sì. Non sì, poi quando si capovolge la macchina c'è sempre appunto la preoccupazione che la testa del pilota possa subire dei danni. Insomma, arriviamo tra l'altro da una settimana che ci ha riportato indietro di 9 mesi fa con l'incidente di Joule, quindi per fortuna non è successo nulla. Tra l'altro, per investigare, perché pare sia stato un cedimento strutturale della sospensione o di qualche tirante della ruota posteriore destra della Forsigna, di Perez, ma anche i compagni di squadra Hülkenberg non sono scesi in pista proprio per una questione di sicurezza. Sì, d'altra parte, insomma, è un momento un po' così, no? Abbiamo ancora negli occhi l'incidente di tra Alonso e Raikkonen, che era stato anche qualcosa di più. Così, visto da camera cara, addirittura qualcosa di più spaventoso. È un momento così, è vero, hai ragione tu, abbiamo vissuto una settimana tragica di Jules Bianchi. A proposito, ne ha parlato Maldonado, sentiamolo. Salutare, a parte un pilota che abbiamo la stessa passione, no? Ha lasciato la sua vita in pista facendo il nostro sonno e la nostra vita. È difficile cominciare un weekend così, senza di lui. Avevamo tutti la speranza di rivederlo presto, anche se sapevamo che i danni sono stati molto gravi. È stato veramente molto, ma molto duro l'addio. Antonio, parliamo della corsa che ci aspetta a Budapest, ultima prima delle vacanze anche per la Formula 1 dopo il Moto Mondiale. Credo che per la Ferrari sia il momento di resistere. Assolutamente, è una pista che, almeno da quelle che sono le prime indicazioni delle prove libere, sta facendo letteralmente volare le Mercedes. Questa non è una sorpresa, in questo momento Hamilton davanti a tutti, ma anche le Red Bull stanno facendo un'ottima prestazione con Kvyat e Ricciardo, che tra l'altro proprio qualche minuto fa ha avuto un problema sullo suo monoposto. Diciamo che eravamo abituati a una Ferrari che, diciamo, si metteva sempre dietro alle Mercedes. In realtà adesso abbiamo visto a Silverstone, se non ci fosse stata la pioggia, sarebbe stato un trionfo per la Mercedes e soprattutto per la Williams. E qui, cambiando completamente la pista e anche le gomme, perché sono più morbide rispetto a quelle di Silverstone, sappiamo dei problemi ormai intrinseci della Ferrari di scaldare le gomme più dure. Ci si aspettava una Ferrari subito dietro alle Mercedes, invece scopriamo la Red Bull, che ha un aio, una aerodinamica che funziona alla grande su un ad alto carico aerodinamico come quella di Budapest, però la Ferrari rimane un po' dietro. È il grande dilemma che poi ci troviamo ad affrontare tutte le ultime stagioni della Ferrari: funzionano o non funzionano queste novità portate in pista? Fino ad ora non ci sono dei grandi riscontri, solo il venerdì, però credo che la Ferrari dovrà guardarsi più che in avanti alle Mercedes, guardarsi le spalle Mi sembra un po' accerchiata in questo momento la Ferrari. Se non sono le Williams, come dici tu, sono le Red Bull, fin qui molto deludenti. Però è chiaro che gli avversari hanno compiuto dei progressi, la Ferrari non è riuscita a fare questi progressi, tanto che si sente dire che la novità sulla quarta power unit stagionale verrà anticipata, che doveva essere per Monza, verrà anticipata a Spa. Sì, queste sono valutazioni che secondo me verranno fatte prima di chiudere la fabbrica. Sappiamo che la Formula 1 impone uno stop di 2 settimane. Sulla, diciamo, il programma dell'uso delle power unit, Ferrari ha cambiato per certi versi, anticipando la seconda power unit. Adesso sono con la terza. Insomma, bisogna bisogna capire un attimo quelle che sono le prestazioni, soprattutto in Ungheria, e poi il grande timore è che su una pista dove il motore conta tantissimo come Spa, la Ferrari riesca, insomma, fatichi ancora, quindi l'idea di anticipare era per prevenire. Sappiamo benissimo però che poi ci troveremo nella tutta la seconda parte di stagione con un'ultima power unit, certo, si possono fare rotazioni, ma il rischio di penalità incombe, certo, sempre, certo, sulla Ferrari. Però poi è tutto un ragionamento che va visto anche da un altro angolo, da un altro punto di vista. La Ferrari deve pensare soprattutto alla prossima stagione, quindi se deve fare esperimenti e se deve portare qualcosa sul motore, forse a questo punto vale la pena di rischiare. No, esatto, ma credo sì, io sono d'accordo, è il momento di rischiare, sia per difendere il terzo posto, perché comunque sarebbe un grande risultato sportivo viste le premesse, sia perché bisogna proprio in questa stagione rischiare tutto per tutto, per anche azzardando, mi viene da dire, per costruire una macchina vincente l'anno prossimo. Antonio Boselli, grazie, ci sentiamo alla prossima, buon lavoro. Sì, ciao, buon lavoro, ciao, ciao, ciao. Torno agli ascoltatori, certamente. Giorgio, provincia di Cuneo, poi Vladimir e poi Enrico. Buongiorno Giorgio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dica. Un saluto e prima di tutto complimenti. Grazie. Allora, cosa devo dire? Io sono juventino, ho seguito il mercato della Juve. La Juve ha costruito delle vittorie partendo da un'ossatura: Buffon, Chiellini, Marchisio, Del Piero. Gli altri vogliono vincere, spendono soldi e non fanno niente. Se lei dovesse fare una cena con stasera con degli estranei e con degli amici, dove si diverte di più? Dove gioca di più? L'affiatamento. Noi ci dimentichiamo che il calcio è gioco. Sì, sì, Giorgio, lei ha ragione. I giocatori. Però, divertirsi, mi permette. Divertirsi quando giocano per vincere. Ci deve essere un gruppo. Ci deve essere un gruppo. Però la Juventus non l'ha costruito in un giorno questo gruppo vincente. Nonostante le vittorie degli ultimi anni, non dimenticherà gli anni successivi alla Serie B. L'ho ricordato in questi giorni, in cui c'erano i Buffon, i Chiellini, Del Piero, Marchisio, quelli che lei ha citato, la Juventus non riusciva a vincere. Quindi quanto lei dice è verissimo, quanto lei dice è verissimo, però non dimentichiamo che sono state le epoche delle vacche magre anche con questi giocatori, quindi ci vuole l'ossatura, l'intraiatura, e questo è il segreto di Pulcinella di ogni grande squadra di qualunque sport. E poi bisogna essere bravi su quello scheletro a costruire un corpo che funziona armoniosamente. Quindi secondo me questo è quanto. Poi la Juve ha cominciato a vincere quando ha cominciato da Pirlo in poi a capire bene cosa voleva sul mercato. Vladimir, buongiorno, provincia di Torino. Pronto? Vladimir non c'è. C'è o non c'è? Non c'è. Allora Enrico, provincia di Trento, buongiorno. Buongiorno, buongiorno gente. Le volevo dire su Cassano. Sì. Forse a Cassano ci vorrebbe l'allenatore Stoicher di Trento, che magari potrebbe farlo rigar dritto. Ecco, questo è il mio pensiero. Sto qui. No, non lo so. Non ho idea, ci hanno provato in tanti. Non credo che Capello sia un tipo molto più morbido. L'ho ricordata anche l'altro giorno quella famosa battuta: intanto le piantine vanno raddrizzate perché sennò crescono storte. Cassano ha avuto nella sua carriera allenatori più duri ed esigenti, con i quali ha avuto un rapporto più o meno buono. Ha avuto allenatori più morbidi. Non dimentichiamo che ha fatto una meravigliosa stagione con il Parma, ovviamente non l'ultima ma quella precedente, con Donadoni, che è un ex giocatore importante, cosa che per Cassano è sempre stato un valore aggiunto nella sua carriera, ma non è certo uno che ti dà le bastonate sulle ginocchia se ti comporti male. Mi viene da dire che molto è legato a quanto decide di fare lui e di rovinarsi da solo la stagione, le annate, la carriera, eccetera eccetera. Vladimir, Torino, è tornato? Sì, eccomi qua. Buongiorno. Eccolo là, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Volevo solo dire, ritornare indietro al discorso che avete fatto prima del professionismo per i pallavolisti. Sì. Io lo guarderei al contrario, non forse alla solita maniera all'italiana, cerchiamo di prendere tutto quello che si può, nel senso, sono professionisti, lo devono essere anche loro, e non comportarsi in certe maniere quando torna comodo. Sì, e quindi certo. Anche professionisti in tutto. Sì, professionisti in tutto, però non dimentichiamo che se fai lo sportivo professionista, questo in tutto il mondo, la cosa importante è il risultato, ma ci sono milioni di episodi che si possono ricordare da questo punto di vista, e ci possono essere anche diverse soluzioni intermedie. Ora, noi non sappiamo, non conosciamo, al di là delle voci di corridoio, quali siano i reali termini della questione, quali fossero i rapporti tra i quattro che sono stati mandati a casa e il resto del gruppo. Però quello che dico è che tu non, se concorri per un titolo importante come la World League, cui sei arrivato dopo un sacco di lavoro, dopo aver costruito la squadra, in cui sono stati investiti dei soldi, la pallavolo è uno sport, è un movimento importante nel panorama italiano, allora prima di rinunciare al capitano, al tuo miglior giocatore, ad altri due giocatori comunque importanti per un ritardo, per una stupidaggine, per una marachella, per una disubbedienza, per una, che poi battezzatela voi come volete, per una contrarietà alle regole del gruppo, per l'essere in giro di notte quando dovevi essere in ritiro, e quante ne abbiamo viste di questo tipo, e mi viene in mente un altro episodio di un tratto da un libro di Phil Jackson, che magari sapete chi è, magari no, io spero di sì, quello che ha vinto 11 anelli da allenatore, allenando Michael Jordan, costruendo i Chicago Bulls, eccetera, è stato anche giocatore vincendo due titoli con New York, quando era all'università, ultimo anno, Università del Nord Dakota, era il capitano della squadra, il senior, è stato investito di un ruolo di leadership, ebbene vanno a giocare a New York, l'allenatore di quella squadra era Bill Fitch, che poi sarebbe diventato il tecnico dei Boston Celtics di Larry Bird, questo esce, va a cena con una ragazza, arriva una tempesta di neve, arriva tardi in hotel, e questo non lo manda a casa, non lo esclude dal gruppo, gli toglie i gradi di capitano dicendo: tu non sei in grado di essere un leader di questo gruppo, però non lo toglie dalla squadra. Possiamo raccontarne un'infinità in tutti gli sport. Allora, tour, direi tour. Ciao Pier Augusto Stagi. Pier, mi senti? Pier Augusto Stagi dalle Alpi, dalla Croix de Fer, mi sento. Il signor Pier Augusto Stagi non è al momento raggiungibile. Vediamo se sarà raggiungibile tra pochi istanti. Intanto vi faccio sentire un'altra cosa. Allora, avrete letto di questo mega contrattissimo che è stato strappato di rinnovo, che è stato inchiostrato da Danilo Gallinari. Ben per lui, siamo tutti felici, con i Denver Nuggets, 27 milioni di dollari per due stagioni più opzione per il terzo, quindi cifra destinata a crescere ancora. Gallinari ne ha parlato e ha spiegato tutto quanto. Ho deciso di prolungarlo perché mi trovo molto bene a Denver e penso sia la situazione ideale per me come città, come squadra, e insomma, ho parlato con il presidente, con l'allenatore, sono stati molto convincenti, quindi come in passato non ne ho fatto sicuramente una questione di soldi, ma solamente di situazione ideale, di situazione di squadra. Sì, è un contratto 2 più 1, quindi alla fine del secondo anno c'è la possibilità da parte mia di uscire dal contratto e provare ad essere free agent, quindi vedremo insomma alla fine dei due anni cosa succederà. Nel frattempo iniziamo a giocarci la prossima stagione a Denver e vedere come andrà. Comunque io non ci trovo niente di male, naturalmente, se sei un professionista, a monetizzare quanto fatto fin lì, e questo era un contratto importante per Gallinari, vista l'età, soprattutto uno dei contratti più importanti della sua carriera, così come è stato importantissimo il contratto firmato da Berinelli, che certamente è andato via da una realtà vincente come San Antonio per andare in una che prova a ricostruirsi per una montagna di dollari, e non ci trovo niente di perverso in tutto questo. Pier Augusto Stagi, ci sei adesso? Sì, ci sono. Eccolo qui. Dove sei? Dove stai? Guarda te, sì, sono. Come va? Dai, una tappa che promette bene. Contador e Nibali hanno già dato una scrollata sul primo Gran Premio della Montagna. Oggi è una tappa molto corta, di soli 138 km, ma ci sono quattro Gran Premi della Montagna durissimi, due di prima categoria e uno di seconda, e adesso stanno affrontando la Croce di Ferro, che è una off-categoria, come la definiscono i francesi. È una tappa quindi compatta, ma senza un metro di pianura, è tutta salita e tutta discesa. Pensa che in 138 km 61 sono solo di salita, e salite di quelle vere, lunghe, 22, 24 km, la più corta è di 18. E Contador e Nibali hanno fatto un bello show, devo dire che hanno messo pressione al Team Sky nella prima salita, sono pronti via. Hanno guadagnato una trentina di secondi, poi logicamente sono tornati sotto, soprattutto approfittando della discesa, però hanno messo a dura prova il Team Sky e hanno messo anche a nudo i giochi di squadra che sono ormai evidenti, quello che tenevo nei giorni scorsi, che Quintana e Valverde in Movistar stanno correndo per il piazzamento, e sono i primi gregari del Team Sky, i primi gregari di Chris Froome. Sì, però adesso si gioca nell'uno contro uno, no Pier? Su quelle salite si gioca nell'uno contro uno? Si gioca con l'uno contro uno, però bisogna cominciare prima, perché se tu aspetti veramente l'ultima salita c'è poco, certo, c'è poco, certo, da fare. Certo. Devi rischiare, logicamente oggi devi rischiare di perdere per sperare di poter vincere qualcosa. Certo, al 90% il Tour non si vince più, perlomeno per quanto riguarda gli italiani, per Nibali. Però se Nibali ha un sogno di poter rimediare in qualche maniera, o vincere una bella tappa, o comunque risalire la classifica, attualmente settimo in classifica generale, e quindi risalire perlomeno quarta, terza posizione, deve cercare il tutto per tutto e mettere pressione agli altri. Logico che andrà anche lui un po' in ebollizione, sì. E può saltare. Potrebbe anche saltare per aria, sì. Però a questo punto bisogna tentare il tutto per tutto, perché c'è oggi e domani. Ricordiamoci, domani c'è da rifare ancora la Croce di Ferro, perché in sostituzione alla Galibier, che è impraticabile per una frana, quindi rifaranno dall'altro versante la Croce di Ferro e poi si va su all'altra due. Quindi. Oggi e domani si fa la classifica. Chiaro. Siamo ormai la resa dei conti e non si fa più tanto tatticismo, bisogna guardarsi negli occhi. E quello che hai, provare a lasciarlo sulla strada, come dicevi tu, a costo di saltare tanto. Tanto ormai a questo punto stiamo. Grazie per Augusto Staggi, ringrazio anche grazie Francesco da Torino che ci ha aspettato, ma purtroppo non riusciamo a parlare perché devo chiudere il programma. Lo faremo, se vorrà, naturalmente lunedì dalle 14 siamo di nuovo qui. Grazie a Giovanni Melchiori in redazione, a Giorgio De Luca il nostro autore, a Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti, buon weekend. Grazie di tutti, di tutto, e una buona estate a tutti.